Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un altro giorno in coda tra Slovenia e Italia per la chiusura della superstrada H4 nella prima mattina, già chilometri di camion in fila. Petizione delle associazioni ambientaliste per Grignano. I lavori, dicono, mettono a rischio gli alberi e l'accesso al mare. Tentata rapina su un autobus della linea 6 a Barcola, l'aggressore si è buttato sotto un'auto per sfuggire invano alla Polfer. Fermo amministrativo per 4 imbarcazioni controllate a Ferragosto dalla Guardia Costiera di Trieste. Innovazione, semplificazione e sburocratizzazione, i propositi del neopresidente di Confagricoltura per i suoi 1500 soci. Esordio in campionato con pareggio per l'Udinese contro il Verona. L'allenatore Rooney Aic non contento, ma le prime partite sono complicate. 12:31 minuti, buongiorno da Daniele Lettig e Rita Micoli. Resta problematica la viabilità autostradale triestina, soprattutto al confine tra Italia e Slovenia, a Fernetti, per via della chiusura della superstrada slovena H4. All'altezza di Rastro, dove lo svincolo per l'H4 è chiuso, la segnaletica non abbonda, con il risultato che in pochi utilizzano la strada alternativa 444 per raggiungere Gorizia. Siamo andati a verificare la situazione sul posto. Ore 9 del mattino, la situazione in territorio sloveno poco prima di passare il confine di Stato italiano al valico di Farnetti è già molto difficile. 10 chilometri di coda verso l'interno della Slovenia fino a nord di Divaccia. Una colonna ininterrotta di tir si procede a passo d'uomo, anche se il disagio è più per gli auto articolati che per le automobili che riescono ad arrivare fino al valico grazie alla corsia di sinistra lasciata libera appunto dai mezzi pesanti. Situazione che non migliora nel corso della mattinata. Strada 1 slovena che da Lubiana arriva verso Trieste e che questa mattina abbiamo percorso per verificare le condizioni della viabilità, le indicazioni ai viaggiatori tramite segnaletica e cartelli luminosi sulla chiusura per lavori dello svincolo con la superstrada H4 a Rasdörto sono scarse. La deviazione verso la strada regionale 444, su cui dovrebbe essere deviato almeno il traffico leggero verso Gorizia, è indicata solo all'ultimo, con la conseguenza che l'arteria non risulta particolarmente battuta. Sul suo percorso incontriamo solo alcune auto e qualche tir, tutti con targa slovena. Ad ogni modo, il traffico che si incolonna davanti al valico di Farnetti non si riversa poi immediatamente sul raccordo autostradale triestino e verso il Lisert, se non col contagocce. Solo un paio di chilometri di coda questa mattina alla barriera autostradale di Trieste direzione Venezia. Merito, se così si può dire, dei controlli di polizia a Farnetti, che di fatto fungono da contingentamento all'ingresso dei mezzi pesanti sul raccordo autostradale 13, benché la cosiddetta laminazione del traffico in ingresso in Italia, ci dicono fonti di polizia, non sia ancora stata ufficialmente istituita. D'altra parte i passaggi all'Isert non sono diminuiti, anzi 27.500 nella sola giornata di ieri, circa 6.000 in più rispetto allo stesso lunedì di un anno fa, secondo le rilevazioni di Autostrade Alto Adriatico. Un aumento di oltre 3.100 mezzi pesanti, ma anche 2.600 automobili in più che avrebbero dovuto percorrere la regionale slovena 444, ma sono invece arrivate appunto a Fernetti e quindi allo stesso Lisert, contribuendo alla congestione del traffico. Da Rasdörto in Slovenia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Autostrade Alto Adriatico ha risposto all'appello di SDAG, la società delle stazioni doganali autoportuali di Gorizia, per la realizzazione di opere di potenziamento dell'ultimo miglio di Gorizia, ovvero il tratto di collegamento tra l'autostrada A34 e la superstrada slovena H4, in ottica da un lato di miglioramento dell'infrastruttura, dall'altro di garantire in sicurezza i controlli di frontiera reintrodotti con la sospensione del trattato di Schengen. La concessionaria ha pertanto provveduto a riasfaltare un tratto di circa 200 metri della rampa di uscita della rotatoria di Sant'Andrea verso l'area di servizio in direzione Slovenia e ha realizzato una piazzola di sosta ad hoc protetta dalle barriere di sicurezza subito dopo la stessa area di servizio per i controlli in uscita da parte delle forze di polizia. In connessione con la piazzola di sosta è stata realizzata anche una bretella stradale delimitata da New Jersey per il rientro delle forze di polizia deputate ai controlli verso la rete stradale della SDAG, senza così passare per la Slovenia. Autostrade Alto Adriatico è sempre a fianco dei principali attori economici della regione che garantiscono sviluppo al territorio e delle forze di polizia che consentono di mantenere i livelli di sicurezza passa sulle nostre strade. Per questo motivo, spiega il presidente della concessionaria Marco Monaco, abbiamo voluto dare pieno appoggio alle esigenze di SDAG, convinti di dare un servizio a tutto il territorio. Una petizione alla Regione per la salvaguardia dell'ambiente e la libera fruizione del litorale di Grignano è quella lanciata da un gruppo di associazioni ambientaliste triestine, il gruppo Riva Massimiliano e Carlotta, Trieste Bella, Lega Ambiente, WWF, LIPU e ISDE, Medici per l'Ambiente. La petizione è stata presentata poco fa. La salvaguardia degli ultimi 12 pini rimasti, ma anche la richiesta della riapertura del percorso attualmente chiuso che garantiva di fatto un accesso libero al mare. A chiederla a Grignano, due passi dal mare, un comitato che ha lanciato una petizione firmata per ora da 150 cittadini che sarà presentata al prima possibile al presidente del Consiglio regionale Bordin. Siamo qui per difendere la nostra costa, il nostro mare, i nostri alberi, dice il documento, ma l'idea è quella di rendere Grignano nuovamente un luogo dove si possa andare al mare, ad esempio anche con la realizzazione di almeno due scalette sulla scogliera nella zona balneabile. Attualmente per accedere al mare bisogna scendere dagli scogli, cosa non facilissima per gran parte dell'utenza per motivi di età. La richiesta principale però riguarda la riapertura del tratto di costa tra Grignano 1 e 2, chiusa al pubblico ormai da 3 anni a causa dei lavori di messa in sicurezza ancora più necessari dopo la mareggiata dell'autunno del 2023. Il percorso è attualmente interdetto, c'è stata un'interrogazione comunale a giugno da parte di Alessio Trieste, ancora senza risposta, e non ci sono tempistiche certe per quello che riguarda la fine del cantiere che si estende anche nella parte sud verso Miramare. Questo dovrebbe finire nel 2026 da cronoprogramma, con la realizzazione anche di un ascensore che porterà al parco di Miramare. Lì vicino, esattamente come è successo nella parte nord, potrebbero essere abbattuti i pini. I firmatari chiedono soluzioni tecniche alternative, come già accaduto a Lignano. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Durante la settimana a cavallo di Ferragosto, la Guardia Costiera di Trieste ha effettuato 8 ispezioni su navi di bandiera straniera, 4 delle quali sono state interessate da un provvedimento di fermo amministrativo che inibisce alla nave di intraprendere la navigazione sino al completo ripristino delle mancanze riscontrate. Tra le carenze più rilevanti è stato appurato che una nave navigava senza la prevista scialuppa di salvataggio. Un certificato di esenzione rilasciato dalla bandiera della nave è stato mostrato al personale della Guardia Costiera di Trieste a parziale giustificazione della mancanza, ma non è stato ritenuto valido. Particolare attenzione è stata altresì rivolta a tutti quegli apprestamenti atti a prevenire gli inquinamenti in mare e alla preparazione degli equipaggi durante le esercitazioni antincendio simulate a bordo nel corso dell'attività ispettiva. A conclusione delle verifiche sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 56.000 euro. Un'aggressione sul bus numero 6 in arrivo da Barcola a Trieste è avvenuta una decina di giorni fa. A notare un giovane che picchiava un passeggero sono stati gli operatori della Polizia Ferroviaria di Trieste. All'apertura delle porte l'aggressore si è subito dato alla fuga cercando di dileguarsi verso il centro città. Inseguito dagli agenti, il ragazzo ha provato a nascondersi sotto un'automobile, ma non è riuscito a sfuggire alla cattura ed è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver opposto notevole resistenza. A bordo dell'autobus hanno scoperto gli uomini della Polfer, il giovane aveva tentato di rapinare un cittadino indiano 50enne residente a Trieste che aveva opposto resistenza. L'aggressore, un cittadino marocchino senza fissa dimora irregolare, aveva sottratto il cellulare al passeggero che, accortosene, aveva cercato di riprenderlo. Quando è stato perquisito, addosso al giovane cittadino marocchino è stato trovato un altro cellulare risultato rubato a Ferragosto a un triestino sulla riviera di Barcola. Dalla visione dell'impianto di videosorveglianza del mezzo pubblico, la Polfer ha poi identificato altri 2 giovani cittadini marocchini di 22 e 25 anni residenti regolarmente in Piemonte e in Veneto, che rendendosi complici del reato avevano favorito la messa a segno del colpo e la fuga del rapinatore. L'arrestato è stato portato in carcere, mentre i presunti complici sono stati denunciati a piede libero in concorso. Cambio al vertice di Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia. Il consiglio direttivo ha eletto come nuovo presidente regionale Nicolò Pancera di Zoppola Gambara, 49 anni, imprenditore agricolo di Zoppola. Succede a Philip Turn Valsassina e guiderà l'associazione per il prossimo triennio. Confagricoltura Friuli Venezia Giulia ha un nuovo presidente, Niccolò Panciere di Zoppola Gambara, prende il posto di Philippe Turn Valsassina, un imprenditore con circa 200 ettari di coltivazioni a seminativi e frutticoltura. Panciere è anche appunto un membro attivo di Confagricoltura e prende appunto la guida regionale dopo quella di Pordenone. Le chiediamo quali saranno le sue priorità. Le priorità appunto sono l'innovazione, la semplificazione e la sburocratizzazione il più possibile. Ricordiamo che Confagricoltura rappresenta le imprese più strutturate, circa 1500 in Friuli Venezia Giulia. Le chiediamo come sta questo settore, che in realtà è composto da tanti settori al loro interno. È un settore, si può dire, in chiaroscuro, perché ci sono alcuni settori che stanno andando bene, come può essere l'allevamento e il settore vitivinicolo, mentre l'oscuro è rappresentato un po' dal seminativo, che è da un po' di anni che sta soffrendo. Questione dazi? Questione dazi è un problema, diciamo, che non sappiamo come risolvere, perché assolutamente le regole possono essere cambiate da un giorno per l'altro, sì che per noi è un problema poi andare ad adottare contromisure. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E APFVG, l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, propone audit energetici per le piccole e medie imprese, gratuiti per le imprese, hanno invece un costo di 500 euro per quelle medie a fronte di un valore di mercato di 5.000 euro. L'audit energetico è uno strumento fondamentale per una gestione integrata dei flussi energetici e per la definizione di possibili misure di intervento con il relativo monitoraggio dei risultati. La transizione energetica delle PMI passa attraverso efficienza, digitalizzazione e monitoraggio. Per questo APFVG ha messo a punto e utilizza il portale Energia, che trasforma i dati raccolti in informazioni comprensibili, collegando consumi, costi e prestazioni aziendali attraverso appositi indicatori. E Samuele Giacometti, esperto in gestione dell'energia di APE, riporta al caso, seguito proprio dall'agenzia di un'azienda del settore legno arredo, che grazie a un monitoraggio effettuato con il portale Energia ha scoperto che l'impianto di aspirazione incideva per il 41% sui consumi energetici complessivi. L'azienda ha quindi deciso di investire in un sistema di gestione intelligente dell'aspirazione. Il risultato è stato un risparmio intorno al 50% sui consumi, con un risparmio in bolletta di oltre il 20%. La nave da ricerca Laura Bassi salperà domani da Trieste per una campagna scientifica nel Mediterraneo, che proseguirà fino al 15 settembre. Le attività di ricerca verranno effettuate nel Golfo di Trieste, alle Eolie e nell'Adriatico Meridionale. Coordinata dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, la missione ha duplice valenza: approfondire gli studi di aree strategiche e provare delle nuove strumentazioni oceanografiche. Nel Golfo di Trieste la nave effettuerà campionamenti geologici e rilievi geofisici nell'ambito del progetto SABMAR di mappatura dei corpi sedimentari dell'ambiente marino e costiero tra Monfalcone e Lignano. Successivamente opererà nell'area delle isole Eolie a Panarea e Basiluzzo, dove sarà impiegato il veicolo sottomarino autonomo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità. Verrà utilizzato per acquisire dati geofisici, geochimici e morfologici dei fondali, e saranno anche sfruttate le fasi di transito nei mari Adriatico e Ionio per analizzare i suoni emessi dai mammiferi marini. Nella seconda parte della campagna la Laura Bassi si concentrerà sulla ricerca scientifica e la manutenzione degli ancoraggi oceanografici. Dopo 20 giorni di campagna rientrerà nel porto di Trieste il 15 settembre. 12:44 e 35 secondi, siamo al tempo. Il cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi e 5 decimi, mare calmo con temperatura di 24 gradi e 5 decimi. A Pordenone 23 gradi, a Udine 23 e 5 decimi, a Gorizia 24. Sul Piancavallo 15 e 5 decimi, a Sappada 17, a Fondisopra 19, a Tarvisio 20 e 5 decimi, a Tormezzo 21. Sul Monte Zoncolan 14 gradi e 5 decimi, sul Lussari 15. Sulla costa a Grado 23 gradi, temperatura del mare di 24 gradi e 5 decimi, a Lignano 25 gradi con temperatura del mare di 23 e 5 decimi. Le previsioni per il pomeriggio dell'ARPA: cielo da poco nuvoloso su bassa e pianura e costa, a variabile su monti e alta pianura. Impegnata da oltre 35 anni sul fronte delle demenze e dell'Alzheimer, l'associazione The Banfield propone anche quest'anno una ricca serie di attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini di Trieste in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, in programma il 21 settembre, ma che si estenderanno lungo tutto il mese di settembre, mese idealmente dedicato a chi dimentica e contrassegnato dal colore viola. Le iniziative sono state illustrate questa mattina nella sede dell'associazione a Trieste. Abbiamo sentito il presidente Massimo Simeon. Le iniziative che l'associazione organizza per questo mese sono moltissime. Le più importanti sono anzitutto l'iniziativa che abbiamo denominato Aggiungi il Vero a Tavola, che inizia il 1 settembre e che si svolge con la collaborazione di oltre 70 esercenti affiliati alla FIP di Trieste. Questi negozi, questi bar, questi ristoranti predisporranno e realizzeranno una bevanda o comunque una pietanza di colore viola con la finalità appunto di sensibilizzare i loro clienti sulle tematiche legate all'Alzheimer. Ed è, diciamo, un segnale concreto che con la collaborazione appunto della FIPE abbiamo inteso proseguire, perché è un'iniziativa che abbiamo già avviato negli anni precedenti e che ogni anno si espande sempre di più con l'adesione di ulteriori esercenti triestini di Trieste e dell'ambito carsuguriano. La seconda iniziativa che mi piace ricordare è l'iniziativa denominata Foresta Viola, che è un allestimento che inaugureremo mercoledì 10 settembre alle ore 10 in Piazza Borsa. È un allestimento che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini, i passanti, i turisti sul tema del ricordo, per cui chi vorrà potrà avvicinarsi, ci saranno i nostri collaboratori, i nostri volontari con del materiale informativo, e l'iniziativa consiste nel sollecitare la scrittura di un ricordo su un bigliettino che potrà essere appeso sui rami della Foresta Viola. E il tema del ricordo è appunto il filo conduttore delle iniziative che l'associazione intende promuovere con la collaborazione dei cittadini. Lo sport adesso con il calcio. Inizia dunque con un pareggio il nuovo campionato dell'Udinese sull'erba del Friuli. Ieri i bianconeri si sono fatti raggiungere dall'Hellas Verona. Presto per dire che all'Udinese mancano i gol di Toven e Lucca. 20 dei 41, quasi la metà della passata stagione dei friulani, hanno riempito la valigia dei due partenti, e nell'esordio con pareggio contro l'Hellas il dato non è passato inosservato. Nel primo tempo le due squadre non riescono a farsi male, il possesso è della squadra di Runjajc, più fisica, ma Davis non è in partita e l'unica occasione è di Zemura, che libero in area di rigore calcia alto sopra la traversa con il piede che non è il suo, il destro. Nella ripresa il Verona, con 4 giocatori su 16 impiegati all'esordio in Serie A, cambia atteggiamento e oltre a difendersi prova a pungere con Giovane. Tocca al brasiliano questa volta colpire la traversa con Sava battuto. Per sbloccare la gara all'Udinese serve un calcio da fermo. Corner di Lovric per la testa di Christensen che supera Montipò. Il momento migliore dei bianconeri coincide con il vantaggio del danese e con il tiro di Zarraga deviato sulla traversa dalle dita del portiere dell'Hellas. La squadra di Zanetti ha il merito di rimanere con la testa in partita, trovando il pareggio nel modo più facile per una squadra in difficoltà negli ultimi 20 metri, sempre da palla inattiva. Ancora un corner, Giovane di testa allunga la traiettoria che trova pronto Serdar sotto porta. Deviazione vincente dello spagnolo con il Verona che resiste fino alla fine, anche grazie alla traversa colpita di nuovo dall'Udinese, questa volta con Camarà. L'equilibrio non si spezza più e l'attesa per un nuovo attaccante si fa meno silenziosa per i tifosi e forse anche più urgente per Runjajc. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora sentiamo che cosa ha detto nell'immediato dopo partita proprio l'allenatore dei bianconeri, Runjajc. Bisogna dire che, prima di tutto, che le prime partite appunto l'inizio del campionato possono essere complicate, in quanto vi sono ancora i carichi da smaltire, da preparazione sia a livello appunto fisico ma anche mentale. Perciò so bene che non siamo ancora a livello al quale dovremmo essere, non sono soddisfatto del risultato, speravamo di raccogliere di più, questo da dire, ma è andata così. La partita ci ha mostrato su cosa dobbiamo lavorare, sappiamo cosa ci manca ancora, cerchiamo appunto dei giocatori che possano fare la differenza a livello di qualità. Io durante questo campionato mi aspetto però anche dei giocatori che erano a disposizione oggi, una buona qualità in fase di possesso palla, avere più forza, più rabbia nella tre quarti campo offensiva. Io veramente ho comunque fiducia nella mia squadra, so che possiamo giocare meglio, oggi non abbiamo dato il massimo, però lavoriamo per farlo. Quindi prima di tutto bisogna concentrarci sui giocatori che sono a disposizione, ma comunque guardiamo anche al mercato se potremo acquistare uno o due giocatori che possano appunto puntellare la nostra rosa e dare il loro contributo. Il basket adesso, un lunedì di 40 anni fa, arrivò a Trieste per una partita di esibizione, quello che qualche anno dopo sarebbe diventato il più grande giocatore di pallacanestro della storia, Michael Jordan. Un appuntamento che gli appassionati presenti quella sera ancora ricordano, anche per la celebre schiacciata che frantumò il tabellone del Palasport di Chiarbola, gremito di tifosi. Palasport dove oggi quel momento è stato ricordato con un'iniziativa in corso. Quella famosa schiacciata di un giovanissimo Michael Jordan che frantumò il tabellone di cristallo al Palasport di Chiarbola giusto 40 anni fa è stata ricordata oggi con lo scoprimento di una targa celebrativa all'interno del vecchio palazzetto dello sport triestino. Il 26 agosto del 1985, davanti a oltre 4.000 tifosi, si giocò una partita amichevole tra Trieste e Caserta, organizzata da uno sponsor tecnico, dove colui che sarebbe diventato il più forte giocatore nella storia indossò la divisa nera-arancia griffata Stefanel Pallacanestro Trieste, realizzando 41 punti con la compagine giuliana. Una serata che è rimasta nella storia del basket triestino e di tutti gli appassionati della palla a spicchi, tanto che la canotta e le scarpe indossate da Jordan furono poi vendute all'asta per centinaia di migliaia di dollari. Attraverso il progetto Truth the Glass si è voluto rivivere quelle emozioni sportive di allora partendo dall'installazione della targa. Massimo Plubello, presidente dell'associazione, che spettacolo! Questo progetto nasce da Eric Filippaz, che è un giovane triestino con grande passione per Michael Jordan. Sicuramente celebreremo questi 40 anni dalla venuta a Trieste di questo grandissimo campione e presenteremo quella che sarà una mostra itinerante che andrà a coprire gran parte della regione Friuli Venezia Giulia con diverse tappe. Un'iniziativa a cui preso parte anche la Pallacanestro Trieste, visto che quest'anno festeggerà i 50 anni dalla sua fondazione. Il general manager Michael Arcieri. Noi stiamo facendo la nostra celebrazione di 50 anni, allora sicuramente anche noi faremo qualche cosa bella anche per ricordare questo momento. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo con il rally. Con un montepremi di oltre 430.000 euro ci si prepara all'ultima delle 5 gare dell'International Rally Cup. Dopo l'Isola d'Elba, Taro, San Martino di Castrozza e Casentino, per il secondo anno consecutivo sarà il rally delle Valli della Carnia a chiudere i giochi con il rango di finale e a massimo coefficiente. Quindi tutti i big del 2025 sono attesi all'appuntamento di Ampezzo del 26 e 27 settembre. Non solo il leader Andrea Nucita, ma anche i rivali più vicini in classifica, Bostian Avbe Eli e Stefano Albertini e gli outsider Marcello Razzini e Filippo Bravi e poi gli immediati inseguitori dei top 5. Oltre al trofeo assoluto sono in palio tante altre coppe prestigiose, tra i pretendenti anche piloti regionali come Bravi, che ha già vinto due volte il Carnia nel 2021 e nel 2023, Marco Zanier, sempre protagonista di classe, Pier Giorgio Di Piazza e Dino Brazzale. L'undicesima edizione della corsa organizzata da Carnia Pistons apre oggi le iscrizioni, che si chiuderanno il 19 settembre. Venerdì 26 sono in programma le prove speciali Passo Pura e Voltois, sabato 27 Verzegnis e Val di Lauco. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Caterina Cabrelli e Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Samantha Gon. Da Daniele Letti, Gerita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona continuazione di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.